Alpine tacca al rodante fior, tacca ed or potrà morir felice, avrò vissuto molto dopo quest'ora di beato amor. Ma come morirò? Mia bella Alice, non dopo lo svenevole, né lusingar, né usuar frase fiorita, ma dirò posto mio pensiero colpevole. Poi, cioè, vorrei che mastro porco fosse a miglior vita. Perché? Perché lo chiedi, saresti la mia lady e falsa fil tuo lar. Povero lei, d'inverno, degna d'un re. Del mio stemma mostra fra gemma e gemma la pompa del tuo sen, né l'ir verte mobile dei rai della damante che le picciol viene nobile. Cerchio d'un guardinfante risplenderai mio fulgida d'un ampio arcobaleno.